Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. La mafia a Fondi, provincia di Latina, esiste. Molti di voi penseranno, bella scoperta. Altri invece, ma pensa ai fatti tuoi. E il giudice, infine, non solo c'è, ma si merita 110. Sì, proprio come alla laurea. Solo che qui non si tratta di un bel voto, ma degli anni di carcere complessivamente disposti dal Tribunale di Latina in primo grado il 19 dicembre per 23 dei 32 imputati. Di questi, 7 sono stati condannati per associazioni di tipo mafioso e 2 per concorso nel 416 bis. Su di loro l'accusa di aver condizionato pesantemente non solo il comune, ma anche il mercato ortofrutticolo tra i più grandi d'Italia. 8 ore di camera di consiglio ci sono volute per i giudici del collegio penale presieduto da Lucia Aielli, che hanno emesso in tempi quasi record la sentenza di un processo che fa seguito all'operazione della DIA di Roma del giugno 2009 denominata Damasco 2. Il colpo grosso è senza dubbio la condanna a 15 anni di carcere per Carmelo e Venanzio Tripodo, calabresi, di cui 3 anni in regime vigilato. Tra i condannati in primo grado ci sono anche 3 dipendenti del comune di Fondi, attualmente in servizio. L'ex dirigente ai lavori pubblici, condannato a 1 anno di reclusione. L'ex comandante della polizia locale, 9 mesi di condanna. E l'ex vicecomandante della stessa polizia municipale, anch'esso condannato a 9 mesi. Con una decisione ipergarantista sono rimasti tutti e 3 al lavoro, anche se in settori diversi da quelli precedenti. Una scelta opinabile ma legittima in una nazione quale la nostra, in cui è solo il terzo grado di giudizio che fa passare in giudicato una condanna e rende dunque possibile ogni scelta della pubblica amministrazione, anche la più criticabile. E allora c'è da augurarsi che la giustizia, anche in secondo ed eventuale terzo grado, sia rapidissima e che poi altrettanto velocemente il comune di Fondi prenda la decisione di licenziare i 3, semmai risultassero condannati in via definitiva. Buona vita a tutti e a domani.